Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. C'era un periodo in cui la produzione del bacco da seta aveva un valore talmente importante per le transazioni economiche da poter essere paragonata all'odierno petrolio. L'Italia era arrivata nell'Ottocento a una produzione di 50 milioni di chilogrammi di seta, il doppio della Francia. Nelle nostre campagne venete, come in molte altre regioni della penisola italiana, l'allevamento dei bacchi era un introito fondamentale per le magre tasche dei contadini e le piante di gelso per alimentare i bacchi erano un elemento onnipresente nel paesaggio. A Padova esisteva una stazione bacologica all'avanguardia, sorta per fare fronte alle malattie che colpivano questi insetti e rischiavano di mettere a rischio un'intera industria, come in quegli stessi anni stava facendo la fillossera con i vigneti, solo che l'industria della seta a quel tempo era notevolmente più importante dell'industria del vino attuale. A distanza di un secolo e mezzo, nessuno più alleva bacchi da seta in casa e anche i gelsi sono divenuti rari, e pochi si ricordano quale funzione fondamentale svolgessero queste piante quando le si incontrano ancora nelle nostre campagne. Ad Abano Terme si è svolto la scorsa settimana un importante convegno internazionale in cui si è parlato del futuro dell'industria della seta. Per questo abbiamo invitato oggi la dottoressa Silvia Cappellozza a parlare di questo argomento. Silvia Cappellozza, che è ricercatrice presso l'unità di ricerca di apicoltura e bacchicoltura del Consiglio per le ricerche e sperimentazioni in agricoltura a Padova, che è l'erede di quella stazione bacologica nata a metà dell'Ottocento. Benvenuta intanto, dottoressa. Buongiorno. Buongiorno. Questo è un argomento per noi nuovo e quindi dovremmo capire un po' di tutto. La prima domanda però è, credo che sia naturale chiederle se esiste ancora un'industria in Italia, non solo in Italia, della seta non sintetica che parte dal bacco, dal gelso, per arrivare poi al prodotto tessile. L'industria della seta in Italia è ancora importantissima, è localizzata soprattutto nel distretto serico di Como, dove si produce più del 90% della seta prodotta appunto in Italia, e questa seta ha anche un grande valore aggiunto perché le nostre industrie lavorano per marchi internazionali quali ad esempio Valentino, Hermès, Hugo Boss e così via. È un'industria altamente tecnologica che mantiene ancora un buon grado di occupazione, quindi impiega molta manodopera specializzata, ed è conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Si pensi che quest'anno con una crisi economica molto imponente, molto importante, certo, ha aumentato il proprio fatturato del 10% in termini di valore, quindi non solo è un'industria esistente, ma un'industria molto attiva. Ma è un'industria che fa riferimento ancora a piccole, come succedeva una volta, contadini nelle campagne che allevavano questi bacchi da seta, oppure adesso è tutto svolto in maniera industriale? Allora, diciamo che quando parliamo di industria della seta parliamo della costituzione di tessuti e della lavorazione finale. La seta infatti viene quasi tutta acquistata all'estero. Fino ad ora veniva acquistata dalla Cina soprattutto, che è il maggiore produttore mondiale, ma con l'industrializzazione di questo paese la quantità di seta prodotta a livello internazionale sta cominciando a calare, sia in termini di quantità sia in termini di qualità. La nostra industria perciò si sta preoccupando di cercare delle fonti alternative rispetto alla Cina, anche perché il prezzo della seta è notevolmente aumentato, addirittura raddoppiato negli ultimi due anni, e quindi ha promosso questo congresso per vagliare la possibilità di fare bacchicoltura con tecnologie più moderne in paesi più vicini a noi, senza ricorrere all'estremo oriente. In questa maniera potrebbe avere il controllo di tutta la catena produttiva e quindi assicurarsi un approvvigionamento di seta della qualità e della quantità adatta per soddisfare i nostri fabbisogni nazionali. Quindi potrebbe essere che in futuro ci sia di nuovo anche la fase della produzione nelle nostre Nelle nostre campagne. Noi abbiamo tutta la tecnologia in mano e anche le risorse genetiche che vengono conservate appunto nella nostra unità di ricerca, sia per riprendere la produzione del seme bachi, cioè delle uova di bacco da seta, sia per far riprendere l'allevamento ai contadini nelle campagne. Naturalmente questo non avverrebbe più con i metodi antiquati di un tempo, ma introducendo nuove tecnologie e quindi cercando di ridurre l'impiego di manodopera e cercando di rendere meno faticose tutte le operazioni culturali e di allevamento. Ci fermiamo per qualche minuto, tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Sono un ragazzo sincero. Da dove cresce la palma? Sincero, da dove cresce la palma, e prima di morire io chiedo un verso puro dall'alma. Bianca, in giugno come in gennaio, coltivo una rosa bianca, perché l'amico sincero mi dà la sua mano franca. Si è acceso, un verso è di un verde chiaro, uno di un cremisi acceso, è come un cervo ferito che cerca pace nell'alma. Guantanamera, Guantanamera. Torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di bacchi da seta e di produzione della seta. Ne stiamo parlando con la dottoressa Silvia Cappellozza, ricercatrice presso l'unità di ricerca di apicoltura e becchicoltura del Consiglio per le ricerche e sperimentazione in agricoltura, erede in qualche modo della stazione bacologica che citavamo all'inizio. Ci può dire esattamente che cos'era questa stazione bacologica, perché era nata e qual è la vostra funzione ancora oggi, visto che dicevamo che la seta è forse uno delle industrie del futuro, insomma uno degli impieghi del futuro? Sì, la nostra stazione è nata nel 1871 ed è nata per volere proprio del nostro re, che è la fondata con decreto regio, ed è nata in seguito a un'emergenza, cioè il diffondersi in Europa di una malattia che si chiamava febbrina e che era arrivata dalla Francia e aveva cominciato a distruggere i nostri allevamenti. Per cercare di porre rimedio a questa grave epidemia e per risollevare le sorti della nostra industria, c'era bisogno di conoscere le malattie del bacco da seta, c'era bisogno di diffondere del seme bacchi sano, cioè delle uova di bacco da seta sane, e c'era bisogno di diffondere delle tecnologie presso gli allevatori. Per questo è stata fondata la nostra stazione, che si chiamava appunto Regia Stazione Bacologica. E il vostro ruolo oggi qual è? Il nostro ruolo oggi è ancora quello che avevamo un tempo, cioè quello di assistere i contadini nel fare bachicoltura e di diffondere tutte le nuove tecnologie riguardanti l'allevamento del bacco da seta e la coltivazione del gelso. Diciamo che è cambiata perché ci stiamo interessando anche di campi più biotecnologici, come nuove applicazioni della seta, che non interessano solo il campo tessile, ma che interessano anche altri campi, come ad esempio quello biomedico oppure certo, quello farmaceutico. Ecco, possiamo parlare anche di questo, quindi la seta non solo come un tessuto, parliamo della seta non sintetica, ma proprio la seta, quella proveniente dai filamenti del bozzolo del bacco. Certo. Hanno anche altri impieghi. Sì, allora intanto bisogna sottolineare il fatto che la seta è una proteina, quindi è totalmente naturale, è prodotta nel pieno rispetto dell'ambiente, perché la coltura del gelso viene fatta in Europa senza l'utilizzo di pesticidi e con un bassissimo utilizzo di fertilizzanti che sono quasi tutti di tipo organico, e questa proteina appunto, la seta, che è prodotta nelle ghiandole del bacco da seta, può essere impiegata anche, siccome è un polimero naturale, per la produzione di biomateriali. Ad esempio, degli esempi di utilizzo sono, essendo la proteina molto biocompatibile, degli impianti di tessuti corneali in persone che hanno avuto ad esempio delle ulcerazioni della cornea per incidenti, oppure degli impianti anche a livello cerebrale, degli impianti di pelle, poiché su una matrice di seta vengono fatte crescere anche le cellule epiteliali, e quindi possono essere anche utilizzati dei film molto sottili di fibroina per fare degli impianti di tessuti con cellule, ad esempio cartilaginose, oppure appunto dell'epitelio e così via. Quindi impieghi vari e anche molto specializzati, molto di grandissima. Specializzati. Per la resistenza della seta si pensa anche ai legamenti, ai tendini e inoltre bisogna dire che la seta che viene utilizzata all'interno del nostro organismo, dopo un po' di tempo viene completamente sostituita dalle cellule ricreate dal nostro stesso organismo, che la usano proprio come matrice per ricreare il tessuto, e viene completamente decomposta naturalmente, quindi non crea fenomeni di rigetto, è molto biocompatibile. Quindi c'è spazio per anche imprenditori che vogliano, al di là dell'agricoltura, del legame con l'agricoltura storico di questo allevamento, c'è spazio anche per i nuovi imprenditori del futuro in questo settore? Beh, allora ci sono degli spazi a livello di imprenditori biotecnologici che si vogliono avvicinare ai nuovi biomateriali e cercare di produrre diciamo dei prodotti di alta tecnologia. E per quanto riguarda gli agricoltori, diciamo diciamo che la produzione cerca in qualche maniera di essere rilanciata. Naturalmente stiamo in questo periodo mettendo a punto un piano di rilancio appunto in collaborazione con la nostra industria nazionale. I risultati si vedranno di qui a qualche anno, perché siamo appena agli inizi. Benissimo, le ringrazio. Grazie a lei di avermi ospitato nella vostra trasmissione. Ecco, per avere informazioni maggiori c'è un sito internet dove si può, per esempio, oppure c'è il museo a Padova forse? C'è il sito internet del nostro istituto, che è www.craapi.it. Grazie. A lei, arrivederci. Arrivederci. Passiamo adesso ad alcune notizie. Viene presentato mercoledì 24 aprile alle ore 11.30 all'Agripolis di Legnaro, nell'aula 14 dell'edificio denominato Pentagono, il forum Giovani Imprenditori Agricoli del Veneto. Si tratta di un web forum creato dalla Regione del Veneto in collaborazione con Veneto Agricoltura per dialogare con i giovani agricoltori e studiosi del settore sul futuro programma di sviluppo rurale. La presentazione ufficiale vedrà la presenza dell'assessore regionale Franco Manzato e di Luca Giacomazzi del gruppo Los Massadores. L'evento sarà visibile in diretta streaming dal portale integrato per l'agricoltura veneta www.piave.veneto.it. Apre a Rovigo la prima agenzia del Consorzio Agrario Nord-Est, ovvero di Padova e Venezia. L'agenzia fornirà mezzi agricoli, sementi, concimi, ma anche attrezzi per robistica e giardinaggio, pellet, legna per stufe e caldaie, abbigliamento da lavoro, materiali per animali domestici. Mancava un riferimento su Rovigo, ha commentato il responsabile della nuova agenzia, Claudio Zanetti, e per questo abbiamo investito con l'idea e la speranza di creare le condizioni per diventare un punto di riferimento agronomico per le aziende che le aiuti a fare le scelte migliori. Paolo De Castro, presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, in visita al Vinitaly di Verona, rispondendo ad una precisa domanda del giornalista Mimmo Vita, ha dichiarato che la PAC, la Politica Agricola Europea, dal 2014-2020 partirà nel 2015. Nei corridoi di Bruxelles questa possibilità stava prendendo consistenza già da qualche settimana, ma solo ora con la dichiarazione di De Castro sembra sia stata ufficializzata. Anche per questa settimana è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima, ricordandovi che ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato Il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.